Sabato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. I tifosi devono tifare, ecco, l'Italia, quindi io penso di avere un ottimo rapporto con i tifosi italiani, quindi sanno che lavoriamo e che io, i calciatori, tutti quanti stiamo cercando di lavorare in un momento sicuramente non semplice. I tifosi devono tifare, questo è il concetto illuminante di Conte, del CT della Nazionale, che stasera gioca in amichevole contro l'Inghilterra. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, diciamo, è un concetto lapalissiano. I tifosi che devono fare? Devono tifare. Seguiremo anche la Nazionale con il nostro Dario Ricci, che è proprio lì allo stadio di Torino, dove sta giocando la Nazionale contro l'Inghilterra. Dovrebbe aver iniziato da poco, poi ci aggiorniamo tra poco e ogni gol che dovesse essere fatto, speriamo, dalla nostra parte e non dall'altra, naturalmente poi ci colleghiamo. E stasera parleremo anche di dati molto controversi, perché ne avete sentito parlare nei giorni scorsi, giovedì e venerdì al più tardi della scorsa settimana, dei dati sul lavoro. C'erano Poletti e Renzi entusiasti, perché dicevano sono cresciuti di molto i posti di lavoro, altri sono stati passati a tempo indeterminato, questo grazie al Jobs Act, e insomma sembrava un dato molto positivo. Ci sono effettivamente dei dati economici positivi più in generale, ma sull'occupazione quelli che sono arrivati oggi dall'Istat non fanno ben sperare, sinceramente, per il momento. Quindi uno dice, che cosa dobbiamo pensare, che vadano bene o vadano male? I dati sull'occupazione non vanno benissimo, quindi non perdete in particolare stasera Effetto Notte, come sempre naturalmente tutte le sere, perché cercheremo di fare un po' di chiarezza su questi elementi contrastanti che non ci fanno più capire niente, se c'è disoccupazione, non c'è, è cresciuta, è abbassata, eccetera. Poi faremo naturalmente anche una puntatina sulla politica, perché oggi Forza Italia ha perso due pezzi, sta perdendo un po' di pezzi. Bondi e la senatrice, che è anche sua compagna, Repetti, hanno deciso di lasciare Forza Italia, andranno nel gruppo misto. Berlusconi si è detto amareggiato, intanto però vede Salvini per trovare un accordo per le alleanze alle prossime regionali, che ci saranno entro maggio, più o meno ci dovrebbero essere. Poi anche con il Movimento 5 Stelle ci collegheremo col capogruppo al Senato, perché oggi hanno votato gli attivisti del movimento online per decidere sul disegno di legge anticorruzione, se domani gli esponenti, i rappresentanti del Movimento 5 Stelle devono votare sì o no a questo disegno di legge, e gli attivisti lo hanno bocciato, quindi questa è l'indicazione che danno al loro partito. Però in tutto questo vi chiedo in particolare questa sera, sempre con i vostri canali privilegiati di intervento qui Effetto Notte, che sono la pagina Facebook del programma Effetto Notte, ma anche il numero degli sms al 349-238-6666, quale può essere a questo punto il futuro di Forza Italia e anche più in generale il futuro del centrodestra in Italia. 349-238-6666, poi la pagina Facebook di Effetto Notte, e adesso vediamo in sintesi qual è stata la giornata. Turchia blitz nel palazzo di giustizia di Istanbul per liberare il giudice di Gezi Park, tenuto da ore sotto sequestro da parte di estremisti di sinistra, è stato gravemente ferito, leggevo poco fa che lo stanno operando. Lavoro, la disoccupazione torna a salire, a febbraio arriva al 12,7%, va male soprattutto per le donne. Corruzione, disegno di legge per combatterla è utilissimo, dice Raffaele Cantone, ma non è la salvezza, e i militanti 5 Stelle bocciano online il provvedimento. Politica, l'Italicum sarà alla Camera l'8 aprile, la minoranza PD prepara la battaglia, in Forza Italia lasciano Bondi e Repetti. Iran, accordo vicino sul nucleare, ma si tratta ancora e si chiude, forse a giugno, il primo ministro israeliano Netanyahu avverte, avranno l'atomica entro un anno. Torino apre il nuovo museo Gizio, per il ministro Franceschini sarà un successo mondiale, e per il calcio stasera a Torino l'amichevole Italia-Inghilterra. Partiamo quindi dalla Turchia, vi dicevo, da Istanbul, dove per ore oggi estremisti di sinistra hanno tenuto in ostaggio il giudice che indagò sulla morte del quindicenne ucciso dalla polizia durante le manifestazioni di protesta, vi ricordate, due anni fa al Gezi Park nel 2013. Oggi le indagini non hanno ancora portato a individuare il poliziotto che sparò quel lacrimogeno, che uccise il povero quindicenne che stette quasi un anno in coma. Ma poco fa ci sarebbe stato un blitz delle teste di cuoio a Istanbul per liberare questo magistrato, che sarebbe stato ferito gravemente, ma ci colleghiamo direttamente con Istanbul, con Marco Barbonaglia. Ciao Marco. Roberta, sembrerebbe arrivata alla fine questa giornata veramente nera per Istanbul e non solo. da tutta la Turchia, in particolar modo però per Istanbul. Sono udite due esplosioni degli spari di arma da fuoco poco fa. Ora il capo della polizia dice che sono stati uccisi i sequestratori e che è stato liberato il giudice, il procuratore, però sarebbe ferito piuttosto gravemente, lo starebbero operando, secondo le ultime notizie, proprio in questo momento. Loro avrebbero preso in ostaggio, Marco, questi quelli che sono definiti estremisti di sinistra, perché non era arrivato a individuare i colpevoli di quell'uccisione del quindicenne 2 anni fa? Questo sì, sembra essere il movente, questo gruppo estremista, connotato con questa sigla DKP-SE, che è un gruppo di ispirazione marxista-leninista, fondato nel 78, che ha preso l'attuale nome nel 94, la leader è stata addirittura arrestata nel 2008 con l'accusa di voler assassinare Erdogan, rilasciata nel 2012 e poi è stata uccisa. Quindi questo gruppo ha formalmente questa motivazione, diciamo. Oggi, tra l'altro, Marco, ci sono stati anche 2 blackout lì a Istanbul. Ecco, la giornata è partita con un grosso blackout che ha interessato non soltanto Istanbul, ma gran parte della Turchia. E diciamo che poi è andata avanti con un blackout che via via ha interessato anche l'informazione, se vogliamo, perché comunque grazie ad una legge che esiste in Turchia è stato impedito di andare in diretta, sono state bloccate le dirette radio e televisive da questo ente statale e quindi c'è stata una sorta di silenzio stampa, un oscuramento dell'informazione su tutta la vicenda. Che è durato anche quando è finito il blackout vero e proprio, quello dell'informazione invece è proseguito e andato avanti. Secondo, tra l'altro, il quotidiano Hürriyet, sarebbe la 150esima volta che accade negli ultimi 4 anni una cosa di questo tipo. Marco Barbonaia, senti, comunque c'è un clima abbastanza teso in Turchia da qualche tempo, no? Il clima sì, è molto teso adesso. Anche senza voler mettere insieme le tessere di un mosaico seguendo qualche pista esageratamente complottista, però effettivamente le elezioni si avvicinano. Il 7 di giugno ci saranno elezioni molto importanti. A giugno le elezioni? Il 7 di giugno, sì. Il paese è diviso in due perché ci sono i sostenitori di Erdogan e del suo partito e ci sono gli oppositori. Sono molto divisi. Quello che vorrebbe Erdogan è raggiungere i 2/3 del Parlamento e poter cambiare la Costituzione, trasformare la Turchia in una repubblica presidenziale, cosa che l'opposizione sta osteggiando in maniera molto forte. Diciamo che in questi giorni è stata approvata questa legge sulla sicurezza, voluta proprio dal Presidente della Repubblica Erdogan, una legge che dà ampi poteri alla polizia. Per esempio poteri di tenere una persona in custodia per 48 ore senza bisogno di consultare un giudice, possibilità di perquisire la gente senza bisogno di autorizzazione giudiziaria, una maggiore possibilità di uso di armi da fuoco durante le manifestazioni e così via. A questo si aggiungono altre cose inquietanti, l'attentato di settimana scorsa al mensile filo islamico ad Emlar, per esempio, la bomba esplosa ha ucciso un giornalista. Tutti questi elementi farebbero pensare, dico una strategia di tensione, come si usa dire anche per le cose che sono successe in Italia, però effettivamente le elezioni sono alle porte, potrebbe essere qualche segnale un po' inquietante. Come diciamo che se non lo è, lo sembra, insomma, il clima sta via via diventando più pesante, a questo si sovrappone il processo di pace che va avanti tra interruzioni e riprese con i curdi. La situazione è molto tesa, molto complicata. Grazie Marco Barbonaglia da Istanbul. Ciao Marco. Ciao. E restiamo ancora all'estero con i negoziati sul nucleare iraniano che proseguono anche domani, ma dovremmo essere alla stretta finale. I negoziati tra l'Iran e i 5+1 potrebbero slittare a domani, un giorno in più rispetto alla scadenza prevista, se utile al raggiungimento di un accordo. Lo indicano fonti diplomatiche statunitensi a Losanna, in Svizzera, dove è in corso la riunione dei ministri degli esteri di Cina, Francia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti e Germania. Obiettivo dei colloqui è giungere ad un'intesa preliminare che garantisca la natura pacifica del programma nucleare iraniano in cambio di una revoca delle sanzioni economiche internazionali che colpiscono Teheran. In linea di massima si profila un'intesa in base alla quale l'Iran per 10 anni potrà utilizzare solo 6.000 delle circa 10.000 centrifughe per l'arricchimento dell'uranio di cui dispone, forse anche meno. Allo stesso tempo i suoi impianti saranno sottoposti a controlli costanti da parte degli ispettori internazionali. Teheran starebbe accettando l'idea di trasferire in Russia l'uranio arricchito che produce. La firma dell'accordo potrebbe essere imminente, visto che il ministro degli esteri russo Lavrov, che ieri era ritornato a Mosca, ha raggiunto Losanna nel pomeriggio. Le possibilità di giungere ad un accordo entro oggi sono elevate, ha dichiarato Lavrov, che lunedì aveva fatto sapere che sarebbe sarebbe tornato in Svizzera solo se ci fossero state chance reali di arrivare a un compromesso. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci sono altri elementi che arrivano dall'inchiesta sulla tragedia dell'aereo precipitato sulle Alpi francesi. L'identificazione di tutte le vittime sarà già possibile al più tardi per la fine della settimana, prima del previsto, quindi molto prima del previsto, così ha detto il presidente francese François Hollande durante una conferenza stampa con la cancelliera tedesca Angela Merkel a Torino. E per le notizie italiane parliamo di economia, tra luci e ombre, doccia fredda per l'occupazione, mentre i dati sul PIL sono più incoraggianti. Ecco, come vi dicevo prima, sono arrivati i dati Istat oggi che dicono che la disoccupazione in realtà di nuovo risale e che riguarda soprattutto le donne. Poi ne parleremo con un esperto, tra poco. Intanto la politica con l'Italicum, la legge sulla riforma elettorale che arriverà alla Camera l'8 aprile, la minoranza prepara la battaglia contro la maggioranza del PD. Da Torre, che è uno degli esponenti della minoranza, dice è meglio il consultellum, cioè l'ira dei renziani. Insomma, sarà un'ulteriore battaglia prossimamente. Già ieri c'è stata la direzione del PD. Intanto Forza Italia invece perde pezzi. Sandro Bondi, senatore, uno dei fondatori del partito, lascia il gruppo insieme alla compagna e collega, senatrice anche lei, Emanuela Repetti. Entrambi hanno consegnato le dimissioni e aderiranno al gruppo misto di Palazzo Madama. Quindi vi chiedo che futuro c'è a questo punto per Forza Italia e anche per il centrodestra in generale. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi e le vostre opinioni, però potete anche metterle direttamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte. E poi è definitiva la prescrizione per Silvio Berlusconi e per suo fratello Paolo, editore del Giornale, nel processo Unipol. Lo ha deciso la Cassazione, che ha respinto i ricorsi del leader di Forza Italia e del fratello, che chiedevano di essere prosciolti nel merito. E siamo all'inchiesta di Ischia. Josy Ferrandino, arrestato ieri il sindaco per l'inchiesta sulle presunte tangenti legate alla metanizzazione, si è dimesso da sindaco di Ischia. L'atto è stato formalmente presentato al municipio di Ischia dal suo difensore e sul giro di tangenti di Ischia interviene anche Raffaele Cantone. Nel PD intanto il caso continua a suscitare polemiche e imbarazzi. Anche l'autorità nazionale anticorruzione ha deciso di vederci chiaro sul presunto giro di tangenti di Ischia. Abbiamo chiesto gli atti dell'inchiesta alla procura di Napoli, ha fatto sapere stamattina il presidente dell'ANAC Cantone. Noi abbiamo chiesto gli atti ufficialmente al procuratore della Repubblica di Napoli per capire se ci sono appalti che possono essere eventualmente commissariati. Lo verificheremo, io sono abituato a leggere gli atti, per il momento ho letto solo i giornali. Questa nuova inchiesta conferma che le cooperative sono diventate ormai dei veri e propri operatori economici, aggiunge Cantone, che sollecita anche norme più trasparenti sui finanziamenti a fondazioni, associazioni e partiti. Il caso Ischia intanto continua ad imbarazzare il Partito Democratico e ad esporlo agli attacchi delle opposizioni. Per Forza Italia il mito della superiorità morale del PD è ormai cancellato. Non può essere il partito di Renzi a darci lezioni di lotta alla corruzione, attacca invece il Movimento 5 Stelle, che oggi ha organizzato un referendum online per far decidere ai suoi attivisti la posizione da tenere domani nelle votazioni al Senato sul disegno di legge anticorruzione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi la cronaca, il cadavere di Irene Focardi, l'ex modella di 43 anni scomparsa da Firenze 2 mesi fa, quello che stava dentro il sacco della spazzatura ritrovato alla periferia della città domenica mattina da un passante. È il risultato dell'esame autoptico in corso a medicina legale al Careggi. L'ex convivente per ora è l'unico indagato. Adesso passiamo a cose più leggere, più piacevoli. C'è stata la riapertura del Museo Egizio di Torino, ci sono grandi novità. Un cantiere spalla a spalla per 3 anni con un museo, l'Egizio di Torino, che debutta con il suo nuovo allestimento, spazi raddoppiati da 5 a 10 mila metri quadri nel cuore del Palazzo Seicentesco, l'antica Accademia delle Scienze, ristrutturato e adattato per ospitare le nuove sale, distribuite su 3 piani. A curare il progetto scientifico il direttore Cristian Greco, con un pool di egittologi. Un museo di tradizione ottocentesca che si trasforma in un museo archeologico, con allestimenti di grande impatto e ricostruzioni multimediali. Una sfida vinta per la Presidente del museo, Evelina Cristillen. Siamo fierissimi di aver rispettato tempi e costi per l'apertura del museo, l'avevamo annunciato, e aver tenuto il museo aperto sempre in questi quasi 5 anni di lavori, aver consentito al pubblico di non dimenticare il museo, anzi di affollarlo sempre di più, perché il 2014 è stato l'anno record da un punto di vista dei visitatori, addirittura più del 2006, quindi è stata una scelta faticosa ma una scelta vincente. L'obiettivo ora è sfondare la soglia del 500.000 di visitatori e scalare la classifica dei musei più visitati d'Italia, con in testa l'idea che per il nuovo Museo di Torino, un progetto che vale 50 milioni di euro, la collaborazione fra pubblico e privato ha funzionato. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. E poi lo sport a questo punto con il nuoto sincronizzato, pensate, per le pari opportunità, che apre anche agli uomini, quindi non ci saranno più solo sirenette, ora in vasca anche sirenetti o sincronetti, come li vogliamo chiamare, e ai mondiali del nuoto 2015 a Kazan in Russia debutterà la specialità del doppio misto. E poi c'è il calcio con il nostro non sirenetto, ma insomma esperto di calcio e di tanti altri sport, Dario Ricci, che è a Torino per l'amichevole che la nazionale sta giocando contro l'Inghilterra. Che novità ci sono, Dario? Roberta, siamo al 32esimo del primo tempo e l'Italia da 3 minuti è in vantaggio grazie alla rete di Graziano Pellè. C'è stata un'azione di calcio d'angolo, pallone che è finito sul lato sinistro dell'area di rigore, il cross al centro di Chiellini e Pellè, l'attaccante che, lo ricordiamo, gioca in Inghilterra proprio nel Southampton, è stato bravo a deviare di testa alle spalle del portiere inglese Hart. Una buona Italia finora, un'Italia sperimentale proprio con Pellè e Deder in attacco e Valdifiori dell'Empoli in regia, che ha creato un paio di pericolose occasioni, al decimo con un bel tiro da fuori di Parolo deviato in angolo da Arte, al 17esimo con una discesa di Darmian chiusa a fatica da Giggs, ma Inghilterra che era già andata vicino al vantaggio al 21esimo però con un bel tiro di rimpallo di Rune finito sulla traversa della porta difesa da Buffon. Poi il gol di Pellè che finora decide questa amichevole in un Juventus Stadium che ha avuto tanti applausi finora per Antonio Conte, qualche fischio da stigmatizzare all'inno inglese. 33esimo di gioco, Italia 1 Inghilterra 0, la rete al 29esimo di Pellè. Grazie Dario Ricci, poi risentiamo Dario per capire come prosegue la partita. Intanto vi ricordo per i vostri messaggi la pagina Facebook di Effetto Notte oppure gli sms al 349 238 6666 per dire quale futuro vedete per Forza Italia, se volete anche per il centrodestra in generale. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, c'è Carmine da Rocca che dice: ciao Roberta, la disoccupazione è aumentata, sta scritto su tutte le riviste, il futuro di Forza Italia sta in Amazzonia. Ecco, iniziamo così, poi andiamo proprio sul concreto tra poco, sia per quanto riguarda l'occupazione, sia anche per quanto riguarda, non so se il destino, ma sicuramente il presente di Forza Italia e le possibili prospettive. Sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, potete continuare a scrivere le vostre opinioni, le vostre riflessioni, oppure al 349-238-6666. Ma intanto vi ricordo, prima di passare al primo ospite di questa sera, le notizie più importanti. Torna a salire la disoccupazione, male soprattutto per le donne e i giovani, segnali positivi sul PIL, sulla ricchezza del paese, a marzo resta ferma la deflazione. A Istanbul, in Turchia, blitz contro i sequestratori di un magistrato, uccisi i due brigatisti, ferito gravemente il PM, si occupò delle indagini sull'uccisione di un quindicenne alle proteste di Gezi Park. E poi l'Italicum, la Camera, ci sarà l'8 aprile, la minoranza del PD si prepara alla battaglia, Renzi dice basta, ci vuole uno sprint anche sulle infrastrutture, è tempo di decidere. L'addio dell'ex fedelissimo di Berlusconi, Bondi, da Berlusconi al misto va, non basta la mediazione dell'ex cavaliere, e quindi Bondi e Repetti, la compagna senatrice, lasciano Forza Italia. Tito Boeri, presidente dell'INPS, dice ci sono pensioni troppo alte e dice non sono giustificate dai contributi versati, queste persone possono dare qualcosa per contrastare la povertà. Tangenti a Ischia, Cantone chiede, il capo dell'anticorruzione chiede gli atti alla procura. E poi l'accordo vicino sul nucleare iraniano, il negoziato continua anche domani. Spunta un video, ecco, questo è un aggiornamento sulla tragedia della Germanwings, spunta un video con gli ultimi secondi del volo, caos e urla, e Lubitz, tra l'altro, emerge che il copilota che ha provocato questo schianto, che aveva avvisato la scuola di volo di Lufthansa delle sue difficoltà psicologiche. Poi per il calcio, 1-0 dell'Italia per ora nell'amichevole contro l'Inghilterra. Quindi concentriamoci adesso su questi dati relativi al lavoro. L'Istat, nella nota mensile di marzo sull'andamento dell'economia, afferma che il mercato del lavoro italiano presenta ancora segnali contrastanti, pur in presenza di un aumento delle ore lavorate nel quarto trimestre 2014. Diciamo, dire segnali contrastanti è fin poco, forse, perché in effetti la scorsa settimana, non più tardi di giovedì, il governo aveva annunciato con entusiasmo una diminuzione della disoccupazione con un aumento consistente dei posti di lavoro, più 70%. 69.000 contratti a tempo indeterminato, avevano detto Renzi e Poletti rispetto a un anno fa per i giovani tra i 15 e i 29 anni. Era stato soprattutto il ministro del lavoro Poletti a lasciarsi andare su previsioni ottimistiche sulla possibilità di una ripresa del mercato del lavoro, ma anche Renzi non aveva nascosto la sua soddisfazione. Sentiamo. Sono dati veramente sorprendenti, dimostrano una crescita a doppia cifra che il ministro Poletti nelle prossime ore individuerà e indicherà, e dunque è il segnale che l'Italia riparte. Siccome l'Italia riparte, è fondamentale che anche sulle infrastrutture non perdiamo neanche un minuto. Però forse si era cantata vittoria troppo presto, perché infatti, vi dicevo, i dati Istat di oggi dicono che dopo un dicembre e un gennaio moderatamente positivi si interrompe il calo della disoccupazione e la curva riprende a salire. E la disoccupazione al 12,7% riguarda in particolare le donne, oltre 42.000 lavoratrici in meno nell'ultimo mese, giovani tra i 15 e i 24 anni senza lavoro sono al 42,6%. Allora ne parliamo con Luca Ricolfi, che saluto. Buonasera Luca. Ciao. È sociologo, professore di analisi dei dati all'Università di Torino, quindi chi più di lui a proposito di dati, ed editorialista del Sole 24 Ore. Luca, quindi aiutaci a fare un po' di chiarezza, non si capisce davvero più nulla. A chi dobbiamo dare ascolto su questi dati contrastanti? Ma non lo so a chi dobbiamo dare ascolto. Dobbiamo dare ascolto al buon senso, forse. Non fingere di entusiasmarsi per dei dati che sono molto controversi e molto modesti, perché il ministro ha tirato fuori questi dati, non ci ha ancora spiegato bene alcune incongruenze che abbiamo segnalato sul Sole 24 Ore e soprattutto non ha dato contestualmente i dati delle cessazioni, perché un conto è dire sono stati stipulati tot nuovi contratti, ma se non dici anche quante cessazioni ci sono state, è difficile fare un bilancio. Adesso è saltato fuori che è vero, sembra esserci stato un aumento delle assunzioni, ma c'è stato anche un aumento delle cessazioni. Cessazioni vuol dire fine di rapporti di lavoro. Quindi comunque sono piccole cifre, stiamo parlando di poche decine di migliaia di persone. Tenete conto quelle che entrano o quelle che escono, Luca Ricolfi? Le une e le altre sono cifre piccole. Piccoli spostamenti. Questi dati che ha dato Poletti l'altro giorno sono basati sulle cosiddette comunicazioni obbligatorie. Ora, non molti sanno che le comunicazioni obbligatorie sono qualcosa come 10 milioni all'anno, perché anche il piccolo, che so io, commerciante che ogni tanto, perché c'è bel tempo al mare, chiama una cameriera in più, quello deve fare una comunicazione. Quindi noi abbiamo 20 milioni di occupati e 10 milioni di finte assunzioni, perché una comunicazione, certo, può essere del tipo ho assunto la tal persona, ma magari per un giorno. Tantissime comunicazioni si riferiscono all'assunzione di un giorno, quindi stiamo parlando di qualche decina di migliaia di persone su 10 milioni. Ti rendi conto che è veramente una goccia nel mare, nell'oceano. Io mi rendo conto, Luca Ricolfi, ma sono in buona fede o non fanno bene i conti al governo? Che fanno? Dunque, io penso che siano in buona fede, nel senso che non è che c'è un dolo per cui i dati vengono manipolati. C'è semplicemente un'enorme confusione, come noi abbiamo constatato più volte quando abbiamo tentato, ancora quando io lavoravo alla stampa, di entrare in comunicazione con l'INPS. C'è una enorme confusione tecnologica, amministrativa, comunicativa, informatica, per cui non sanno nemmeno loro bene, secondo me, con che diavolo di dati lavorano. Poi c'è la solita tecnica dei politici di sfruttare qualsiasi segnale che sembra positivo, amplificandolo enormemente e presentandolo come un grande successo. Allora, in quel senso lì c'è un po' di furbizia più che di dolo. Però io sono convinto che questi dati sono semplicemente stati presentati con una certa avventatezza, tanto è vero che dopo 3 giorni che noi abbiamo sollevato il problema non ancora tutto, come Sole 24 Ore voglio dire, non ancora tutto è chiarito. Gli unici dati seri, perché sono sempre prodotti con la stessa metodologia, hanno una chiara interpretazione perché non c'è questo meccanismo delle assunzioni di una giornata, sono i dati Istat che sono usciti oggi, e quelli lì parlano chiaro, cioè dicono quello che hai detto tu, cioè che va molto male alle donne e ai giovani, che poi sono i settori più deboli, no, del mercato del lavoro, quelli per cui io ho coniato il termine terza società, no? Sono le persone che in questo momento, ma da diversi anni, non solo in questo momento, soffrono di più. Noi abbiamo un modesto aumento dell'occupazione maschile, secondo gli ultimi dati ISTAT, cui si contrappone però un calo dell'occupazione femminile e giovanile. Già. Quindi il quadro non è particolarmente allegro. No. Non è particolarmente allegro anche perché, se posso aggiungere qualcosa, sì, noi ci aspettavamo un'esplosione dell'occupazione. Cioè, tieni conto che gli imprenditori non assumevano da mesi, perché aspettavano il Jobs Act. Il Jobs Act e la decontribuzione soprattutto. La decontribuzione è arrivata al 1 gennaio, io mi sarei aspettato una specie di rimbalzo bolla occupazionale con un grande apparente aumento delle assunzioni, semplicemente perché gli imprenditori erano stati fermi per mesi in attesa della decontribuzione, arriva la decontribuzione e ci lanciamo a pesce. Ma così non è stato. Invece ci sono poche decine di migliaia di assunzioni in più, non posti in più, perché tra l'altro nell'opinione pubblica non sempre è chiara la distinzione. Assunzioni in più non significa nulla. Quello che conta è se si creano dei posti di lavoro in più. Cioè significa mettere in regola magari qualcuno, tu dici, all'assunzione. Certo, intanto sono in grandissimo, ma questo ormai lo stanno riconoscendo tutti, anche i consulenti del lavoro, eccetera, sono delle regolarizzazioni. Cioè questo Jobs Act è un'ottima cosa, ma è un'ottima cosa nel senso che regolarizza delle posizioni, o meglio, rende più stabili delle posizioni che sono già regolari, ma sono a tempo determinato. Ma questo non vuol dire che le donne, i giovani che cercano da anni di avere un lavoro lo trovano. Significa solo che chi un lavoro già ce l'ha riesce a renderlo un po' più stabile, magari avrà il mutuo in banca più facilmente, eccetera. Questa è una cosa buona. Chiarissimo, chiarissimo. Luca Ricolfi, così hai fatto davvero, hai illuminato un po' su questa confusione forte, hai dato modo anche a chi ci ascolta, a me stessa, anche di avere le idee più chiare. Purtroppo, devo aggiungere alla fine, Luca Ricolfi, ti ringrazio, al prossimo appuntamento allora, buon lavoro. Ciao Luca. Grazie a te, ciao. Ciao. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, vedo arrivare i vostri messaggi, perché tra poco parleremo di politica come avevo anticipato prima, parleremo prima di Forza Italia, poi anche del Movimento 5 Stelle. E a proposito del futuro di Forza Italia, visto che perde pezzi e comunque è ormai da diversi mesi e anche di più di mesi in difficoltà, che pensate, quale prospettive, quale futuro può avere, quale futuro anche il centrodestra? Clotilde scrive al 349-238-6666, ma perché Forza Italia esiste ancora e poi ci sono ancora centrodestra e centrosinistra? A me sembra tutto una grande marmellata tenuta in piedi per motivi disdicevoli. Un altro messaggio dice: Movimento 5 Stelle, unica via d'uscita per il bene dell'Italia. Fulvio e anche Eloisa fanno dell'ironia sui guai di D'Alema per il vino venduto alle cooperative rosse, però per il momento non è indagato e dice che non ci sono illeciti. E poi vi ricordo le notizie principali prima di passare ai prossimi ospiti. Naturalmente in primo piano la Turchia, blitz nel Palazzo di Giustizia di Istanbul c'è stato oggi per liberare il giudice di Gezi Park, tenuto da ore sotto sequestro da parte di estremisti di sinistra che sarebbero stati uccisi dalle teste di cuoio, e il magistrato gravemente ferito dovrebbe essere operato, dovrebbe essere in corso ancora l'operazione. Il lavoro, la disoccupazione torna a salire in Italia, a febbraio arriva al 12,7%, va male soprattutto per le donne, abbiamo chiarito questi dati contrastanti con l'analista dei dati, il professore dell'Università di Torino Luca Ricolfi. Corruzione, il disegno di legge per combatterla è utilissimo, dice Raffaele Cantone, ma non è la salvezza, i militanti 5 Stelle bocciano online il provvedimento. Per la politica l'annuncio che l'Italicum sarà alla Camera l'8 aprile, la minoranza del PD prepara la battaglia. E poi il calcio, stasera a Torino l'amichevole si sta giocando tra Italia e Inghilterra, se non ci sono aggiornamenti l'Italia dovrebbe essere sempre in vantaggio 1-0. Quindi dicevamo i tormenti di Forza Italia, dagli ultimi guai giudiziari di Berlusconi, dalla sua sospensione dal Parlamento, dal patto del Nazareno prima e dalla rottura poi di questo patto con tra l'altro dissidenti capeggiati da Raffaele Fitto che creano altri disagi, Forza Italia pare che non conosca più pace e adesso perde anche pezzi. Infatti l'ex coordinatore azzurro Sandro Bondi e la compagna senatrice, anche lei Emanuela Repetti, lasciano Forza Italia, vanno al gruppo misto. C'è stato il gelo del consigliere politico di Forza Italia Toti, che ha detto buona fortuna. Berlusconi si è detto amareggiato, nel frattempo sta incontrando Salvini per capire come accordarsi, quale alleanza fare, insomma, per le regionali in vista. Ne parliamo con Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore oggi anche alla Camera. Barbara, che cosa sembra che stia succedendo? Quindi Forza Italia si sta veramente disgregando. Non riesce a essere più il collante. Ciao Berlusconi, ciao Barbara. No, Berlusconi non riesce a essere più il collante, in quanto la sensazione che si ha è che ormai ognuno vada un po' per conto proprio, non si può neanche parlare di correnti, di minoranze, come ad esempio facciamo per quanto riguarda il PD. Qui veramente è un po' un tutti contro tutti. Questi fedelissimi di Berlusconi, che così appelliamo anche noi quando scriviamo sul giornale, diventano un gruppo sempre più ristretto, adesso soprannominato cerchio magico, di cui fanno parte appunto 4-5 persone, e intorno c'è il mare dei forzisti, anche di come dire storici. Parliamo per esempio del senatore capogruppo dal Senato Paolo Romani, che soltanto sabato scorso ha lanciato un pubblico j'accuse su come viene gestito il partito, sulla vicenda di come è stata affrontata la vicenda delle riforme. Insomma, c'è un malessere, tanti scontenti ci sono molti scontenti, anche perché poi siamo alla vigilia di un appuntamento elettorale come le regionali, che non bisogna dimenticare mai che si tratta dell'unica ormai elezione rimasta, se escludiamo le europee, con le preferenze, in cui, come dire, i voti si contano davvero ed ognuno è portatore di voti. Allora, che cosa sta succedendo? Che Berlusconi ha dato praticamente incarico alla tesoriera Maria Rosaria Rossi di gestire la partita della composizione delle liste elettorali, e questo sta creando una sorta di tutti contro tutti, appunto, anche all'interno dei vari territori. Per questo che Bondi quindi e Repetti se ne vanno? Bondi e Repetti se ne vanno perché si sono sentiti abbandonati. Cioè, qui c'è tutto un discorso anche di carattere personale. Bondi era, non ci dimentichiamo, era quello che ministro nel salotto della di Vespa decantava con le sue poesie il berlusconismo. Insomma, qui ci sono persone che sono cresciute all'ombra di Berlusconi e che poi si sono sentite tradite da Berlusconi. Quindi io il caso Bondi Repetti lo metto un po' metto in questa casella. Detto questo, è evidente che questo sconquasso di Forza Italia ha un unico vincitore, che è Matteo Renzi, perché non c'è dubbio che la divisione di quello che comunque è dopo il Movimento 5 Stelle, che però insomma non viene ritenuto una forza che possa essere vicina al governo, no? Che comunque anche quello ha perso diversi pezzi. Insomma, questa frantumazione dell'opposizione non può che fare comodo a chi governa, in questo caso al governo c'è Renzi. Per cui non si esclude, ad esempio, che sulla legge elettorale alla Camera possano essere dei forzisti, in questo caso si parla soprattutto di coloro che sono vicini a Denis Verdini, che possano in qualche modo sostenere l'Italicum e quindi, come dire, rendere meno impervio il cammino delle riforme qualora la minoranza del PD o una parte della minoranza del PD decidesse poi di non votarlo. Già, le maggioranze variabili, insomma, quindi Renzi alla fine casca sempre in piedi. E Renzi casca in piedi per una debolezza evidente e per il fatto che comunque nel centrodestra oggi il leader di fatto è un Salvini, in cui però non si riconosce quello che viene definito solitamente l'elettore moderato, e quindi di fatto è un'opposizione lepenista che però poi non riesce a trovare un consenso maggioritario e quindi un consenso di governo. Grazie. Non è un'alternativa. Sì, Barbara Fiammeri, ci ritroviamo alla prossima puntata, perché sì, certamente ovviamente non è finita qui, e dicevi di questo appuntamento così importante delle regionali. Vedremo anche gli accordi, vediamo se regge il resto del partito e come proseguono questi malcontenti. Barbara, ti ringrazio. Figurati, grazie. Ciao Barbara, a voi. Buona serata. Ciao. E da Forza Italia al Movimento 5 Stelle saluto il senatore Andrea Cioffi, capogruppo del Movimento al Senato. Buonasera Cioffi. Buonasera, buonasera a lei. E ci occupiamo del disegno di legge anticorruzione, perché avete fatto un'altra votazione online questa volta, però Cioffi, con i vostri attivisti, non per decidere un candidato, una carica, però per capire il livello di gradimento di questo disegno di legge anticorruzione che domani dovrebbe essere votato alla Camera, per avere un'indicazione insomma dei vostri elettori. E hanno bocciato il disegno di legge anticorruzione, no? L'80,3% ha votato contro, i favorevoli 19,7%, quindi voterete contro, Cioffi, domani? Sì, noi abbiamo, diciamo, non abbiamo fatto altro che fare delle cose che abbiamo già fatto e che sempre di più vogliamo fare, cioè vogliamo far decidere le persone. E quindi abbiamo chiesto a tutti coloro che liberamente si possono iscrivere sul portale di Beppe Grillo, qualunque cittadino si può iscrivere, cosa pensano di questo disegno di legge che dobbiamo votare. Perché questo disegno di legge che dobbiamo votare è ancora una volta un, chiamiamolo, compromesso a ribasso, nel senso che quando si vengono a colpire alcuni, diciamo, alcuni problemi profondi che sono presenti nello Stato italiano, non si può scendere a un compromesso a ribasso, cioè è assolutamente diciamo deleterio, non conforma all'interesse collettivo. Però noi per spiegare bene questa cosa abbiamo fatto questo post e abbiamo chiesto a tutti di esprimersi, e le persone si sono espresse dicendo no, questo compromesso a noi non ci conviene. Cioffi, cos'è che vi convince meno di questo provvedimento? Beh, ci sono delle cose che noi abbiamo chiesto e che non ci sono state accettate. Poi chiaramente c'è ancora la giornata di domani, però diciamo abbiamo chiesto che il DASPO sia, diciamo, completo, quindi tutte le fattispecie di reati comportino la impossibilità di avere contratti con la pubblica amministrazione. Abbiamo chiesto di inserire l'agente provocatore, insomma abbiamo fatto una serie di proposte di modificare l'autoriciclaggio per farlo diventare una cosa seria, non quella schifezza, mi permetta diciamo, la parola, che ha fatto approvare il governo. Insomma, ci sono una serie di aspetti che non ci portano a pensare che questo sia un provvedimento serio. Allora, qua si parla tanto di serietà, di fare le cose. Allora, se vogliamo fare le cose, facciamolo. Noi siamo sempre stati disposti a farle con chiunque, che sia il PD, che sia Forza Italia o qualunque altra forza politica presente in Parlamento, però dobbiamo fare delle cose che siano veramente di interesse collettivo. Allora, abbiamo il coraggio di fare le cose? Sì, ok, le facciamo insieme. Però siccome questo coraggio non c'è mai, è difficile trovare, come dire, un equilibrio con le altre forze politiche. Cioffi, vedo che però l'equilibrio l'avete trovato sul decreto legge antiterrorismo, perché leggo di pochi istanti fa questa agenzia, accordo trovato tra maggioranza e Movimento 5 Stelle sul decreto antiterrorismo che sarà votato tra poco da parte dell'Aula della Camera. Quindi su questo c'è stata almeno una sintesi. Questa è la controprova di quello che le stavo dicendo. Benissimo. Io non ho ancora letto l'agenzia, naturalmente. L'ho informata però, in diretta, via. Benissimo, perfetto. Però questo non è altro che la controprova di quelli che abbiamo detto. Quando una cosa va, almeno questa sarà stata, diciamo, l'analisi dei deputati della Camera, va nell'interesse collettivo, si vota insieme. Allora qual è il problema? Vede, questa è esattamente la controprova. Noi su alcuni provvedimenti che riteniamo, diciamo, coerenti con l'interesse generale, votiamo in un modo. Su altri provvedimenti che invece sono questo famoso compromesso a ribasso, che ha rovinato, diciamo, la politica italiana, non ci siamo. Non ci state. La ringrazio, senatore Cioffi. Prego, grazie, buona serata. Adesso aggiorniamo chi sta viaggiando. Dice Fabio, il Movimento 5 Stelle spazzerà via tutto il marcio. Potete continuare a scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure se per gli sms al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ed eccole brevemente le notizie. Torna a salire la disoccupazione, male soprattutto per le donne, questi sono i dati Istat, e anche per i giovani va male, positivi invece i dati sul prodotto interno lordo, e a marzo resta ferma la deflazione in Italia. Poi oggi in Turchia, ore difficili a Istanbul con un magistrato che aveva fatto delle indagini sulle proteste di Gezi Park, è stato sequestrato da estremisti di sinistra, poi c'è stato il blitz delle teste di cuoio che l'hanno liberato, hanno ucciso i rapitori e hanno ferito anche gravemente l'uomo. Italicum alla Camera l'8 aprile, ci sarà la minoranza che prepara, darà battaglia, insomma, e Renzi dice che bisogna darsi uno sprint e tempo di decidere. L'addio dell'ex fedelissimo Bondi a Berlusconi in Forza Italia, è stata questa defezione sua e anche della senatrice e compagna di Bondi Repetti, che vanno nel gruppo misto. Boeri, presidente dell'INPS, dice che ci sono pensioni troppo alte, non giustificate dai contributi versati, queste persone possono dare qualcosa per contrastare la povertà. Poi Tangenti, Ischia, il capo dell'anticorruzione Cantone chiede gli atti alla procura, è vicino l'accordo sul nucleare iraniano, si continua ad oltranza il negoziato. E poi, per quanto riguarda la tragedia della Germanwings, spunta un video secondo il settimanale francese Paris Match sugli ultimi secondi del volo, vi potete immaginare la drammaticità. E poi, per quanto riguarda l'amichevole dell'Italia, dovrebbe essere ancora 1-0, si procede così contro l'Inghilterra a Torino. Europa 24 notte. Europa, parliamo di latte, le famose quote latte. Dopo 32 anni cessano i vincoli imposti dall'Unione Europea alla produzione del latte, gli allevatori europei potranno così produrre tutto il latte che vorranno. Fine di un sistema fortemente contestato, per il quale l'Italia ha dovuto pagare molte multe salate. Secondo la Coldiretti c'è il rischio concreto dell'arrivo di nuove sanzioni, però stimate attorno ai 40 milioni di euro per l'ultimo anno di attuazione del regime appena terminato. Gli allevatori però si dividono tra quelli che sono favorevoli a questa cessazione delle quote latte e quelli che invece sono impauriti tra rischi e opportunità. Oggi manifestazione in piazza del Foro di Traiano a Roma, dove hanno partecipato anche il ministro delle politiche agricole Martina. In piazza c'è anche la pronipote della mucca onestina, simbolo della battaglia per il Made in Italy, e poi banchetti con il latte fresco rigorosamente italiano e formaggi DOP. Made in Italy e qualità, infatti, sono le parole chiave secondo gli allevatori per affrontare il futuro, quello che comincerà domani quando andranno in soffitta le quote latte imposte da Bruxelles. I produttori di tutta Europa non dovranno più combattere con il contingentamento della produzione pena multe salate, un regime che secondo la Coldiretti dal 1984 ad oggi ha decimato gli allevamenti italiani, portandoli da 180.000 a 32.000. Solo una stalla su 5 è riuscita a sopravvivere. Una pagina buia l'ha definita il ministro delle politiche agricole Martina. Chiaro che entriamo dentro una stagione nuova e secondo me questa stagione nuova deve innanzitutto per noi partire da una rinnovata strategia di posizionamento e di rafforzamento della nostra tipicità, dell'esperienza del latte fresco italiano, dei formaggi DOP italiani, della tracciabilità della qualità del latte italiano. Su queste partite stiamo già aprendo una serie di battaglie anche con Bruxelles e andremo avanti perché abbiamo tutte le condizioni per promuovere e rafforzare il latte italiano. Serve l'aiuto di tutti, il governo c'è, vuol fare la sua parte, lasciandoci alle spalle anche un po' di mala gestione della politica sulla vicenda in particolare del settore lattiero caseario. Mi riferisco in particolare agli anni in cui la vicenda delle quote latte ha creato parecchi problemi agli allevatori italiani. Ora si volta pagina dunque, ma le preoccupazioni non mancano. Se infatti da una parte c'è il senso di liberazione e la speranza di nuove opportunità di mercato, dall'altra ci sono i timori di dover competere con agricolture più forti e concorrenziali, di un'invasione del latte straniero con conseguente crollo dei prezzi. Questo lo stato d'animo di un allevatore oggi in piazza. Ora sicuramente la liberalizzazione è un fatto positivo, però bisogna che non sia una liberalizzazione dei prezzi, perché questo è quello che noi temiamo, che a un certo momento per avere lo stesso reddito che oggi tiriamo fuori, viene fuori che a un certo momento dobbiamo triplicare il numero delle vacche da allevare, da mungere, e questa è una bella fatica. Di qui la richiesta degli allevatori al governo affinché ci sia al più presto il logo di latte 100% italiano, unito alla tutela sulla contraffazione dei formaggi. Che ci aiuta a supportare il prezzo alla produzione, non alla vendita. Il prezzo alla produzione è molto basso. E tutte le aziende oggi lavorano sotto costo. Il riconoscimento di un marchio. Un maggior margine alla produzione, magari con un marchio che contraddistingua il latte italiano dagli altri latte che saranno uguali, saranno allo stesso livello, però noi vogliamo il Made in Italy. Insomma, bene la fine delle quote, dicono gli allevatori. Insomma, bene la fine delle quote latte, ma che ci siano garanzie per il futuro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E adesso parliamo, invece spostiamoci fuori dall'Europa, andiamo nel paese più grande e popoloso dell'Africa, che è la Nigeria, dove oggi sono arrivati i risultati delle elezioni presidenziali. Il candidato dell'opposizione, l'ex generale musulmano Muhammadu Buhari, ha vinto le elezioni presidenziali contro, battendo quindi il presidente uscente Goodluck Jonathan, e si tratta della prima vittoria di un candidato d'opposizione al partito nella storia ha dominato, insomma, nel paese. Il presidente uscente, battuto, Jonathan, si è congratulato con il vincitore. Adesso a che punto sta la Nigeria? Che cosa l'aspetta per il suo futuro? Un paese che è stritolato tra la povertà e il dilagare di Boko Haram, questo movimento di integralisti islamici che, sapete, hanno rapito centinaia e centinaia di donne e di bambini e non hanno nessun problema a trucidare e a spargere sangue per tutto il paese. Ne parliamo con Bruna Soravia. Buonasera, professoressa. Buonasera. Docente di istituzioni e storia dei paesi islamici in Africa e in Asia. È un paese che crea molta inquietudine, no? Anche a livello internazionale, con quello che sta succedendo e con questa pari impotenza nei confronti di questo movimento integralista e sanguinario Boko Haram. Sì, infatti il presidente eletto, se si conferma questa elezione, Muhammad Buhari, è stato appunto eletto su una piattaforma che prometteva di spazzare via Boko Haram. Boko Haram che, fra l'altro, era stata invece in precedenza una delle, dei cavalli cavalcati dallo stesso presidente eletto, che si era proposto come mediatore fra il governo e il movimento integralista. Successivamente, come sappiamo, Buhari ha invece rotto i ponti con Boko Haram dopo il rapimento delle studentesse di Chibok. È stato fatto oggetto di attentati per questo e appunto ha promesso prima delle elezioni di fare piazza pulita, e questo è sicuramente apparentemente il motivo principale di questa vittoria così netta. Ma adesso, visto che si è passati da un presidente cristiano, no? Jonathan, Goodluck Jonathan, a uno musulmano come Buhari, intanto c'è una progressiva islamizzazione, no? della Nigeria. Ma guardi, la Nigeria, diciamo così, è stabilmente uno stato diviso fra un nord e un ovest, diciamo così, prevalentemente musulmani, e un sud e un centro consistentemente cristiani. Io non vedrei una contrapposizione religiosa fra i due candidati, diciamo così, fra i due candidati alla presidenza, nel senso che Muhammad Buhari appartiene sì alla parte musulmana della popolazione nigeriana, ma è un musulmano molto tiepido che ha soprattutto ampiamente sconfessato il passato appoggio dichiarato, per esempio, all'imposizione della Sharia nel nord del paese, e si è dichiarato proprio prima delle elezioni un convertito democratico, al punto che, per esempio, l'Economist lo ha definito il meno peggio che potesse sperare la Nigeria. E io vorrei anche far osservare che l'Occidente ha scommesso su Buhari, al punto che lo skin doctor, diciamo così, della sua elezione è stato il famoso David Axelrod, che è stato lo skin doctor di Clinton e addirittura di Obama. Quindi questo appunto è un segno chiaro che su questa persona l'Occidente ha investito. Quindi appunto non possiamo sicuramente identificarlo, almeno per il momento, con una parte, ecco, appunto, antioccidentale, integralista. Questo quindi è importante, c'è stato anche un sostegno quindi della comunità internazionale occidentale, perché si hanno buone speranze anche rispetto appunto alla lotta, finora quasi nessun esito direi, nei confronti di Boko Haram, che rischia di dilagare ulteriormente nel paese. Guardi, le buone speranze sono limitate dall'età di Buhari, che ha, mi sembra, 73 anni, e sono rinforzate appunto dalla sua personalità, anche dal suo, diciamo, curriculum politico. Buhari è stato già l'uomo al potere in Nigeria fra l'83 e l'85, 1983-85 come militare, quindi appunto non come presidente civile, e appunto si è distinto per un governo di lotta alla corruzione, lotta alla delinquenza, di austerità. Poi ha trasceso nella lotta anche ai diritti civili, diciamo così, dei nigeriani. Insomma, ha un passato di uomo d'ordine. Quindi speriamo che il paese possa avere un minimo di svolta. Grazie, professoressa Soravia. Va di cui ringrazio, arrivederla. Chiedo scusa anche per le difficoltà del collegamento, ci sentiamo tra poco.